Good morning, Radio Kabul! Salut! Nieruchimi Respublik Svobodny, splatila na veki velika jaros! Milan, bolševiko! Zostani vole naroda! Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Sovietski Sajus, slavsia Vecislav. Comunista bolscevico, Milan Setung, Setung, Setung. Radio Kabul. Družbi naroda, mladjož diablo. Stalin, Lenin, Milan. Vai con l'armata rossa! Piegati al sistema che non siete altro! Uno, uno, uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 9:08 e ci siamo con un pizzico di voce così che è partita. Vabbè. Ma chi se ne frega? Vabbè, ho capito, caro Filippo Aureggi, in regia, ti ringrazio molto, ti sei sempre distinto per l'empatia e la vicinanza al prossimo, soprattutto quando in un momento di lievissima sofferenza. Ho la voce un po' ballerina oggi, abbiate pazienza, ma d'altronde un pezzettino di voce l'ho lasciato là nel tempio del calcio a San Siro. Prova a passare Rebic con la suola. Rebic cerca lo spazio per calciare. Ante Rebic all'ultimo minuto. Volevo tranquillo, non ci sono altri motivi se non questo del calo di voce. Non ci sono altri motivi se non questo. È il fatto di essere stato a San Siro e aver portato tra l'altro anche il buon Mattia. Insomma, che così alla fine è un po' Antipolto. È così, si è lasciato andare facendosi anche dei video. Va bene, signori, non importa, rientriamo in noi alle 9:09, salutando Miriam. Devo fare tutta la trasmissione con questi acuti fastidiosissimi. Salutando in redazione Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. E ricordando a tutti che oggi comunque è il Blue Monday, cioè il giorno più triste dell'anno. Oh, scusate se rubo il lavoro a Leonardo Lentopede Manera, che arriverà tra poco, e vorrò sapere com'è andato lo spettacolo che ha fatto ieri a Castel San Giovanni, anche a beneficio dei bambini dell'oratorio di Castel San Giovanni, che lo attendevano con grande ansia. Bene. Sappiate che è il giorno, il Blue Monday oggi, il giorno più triste dell'anno. Vai. Enthusiasm about the future. E qui ci sta bene oggi, è l'entusiasmo di Conte. Perché il giorno più triste dell'anno si spiega così, è lunedì intanto. Se ho capito bene, guardo Lorenzo Nespoli, è passato Natale, quindi non avete più soldi da spendere. Poi sì, me l'hai stampato, ma volevo ricordarmelo a memoria. Poi non c'è neanche più scuse per mangiare dolce e cioccolato, perché siete a dieta, fa freddo, le vacanze sono lontane. Insomma, il terzo lunedì del mese di gennaio è considerato il giorno più triste dell'anno. Quindi adesso, se vi siete svegliati con una certa, come dire, nebbiolina nell'anima, sappiate che è dovuto solo a questo. Domani, come diceva quel tale un po' più famoso di me, domani è un altro giorno. Oh, ed è martedì e non è più il giorno più triste dell'anno. Allora, signori, ci sono tante notizie di politica. Questa settimana è la settimana in cui si vota in Emilia-Romagna, in Calabria, lo sapete, e quindi... Ma la teniamo lì questa questione, se volete intervenire. Dopo avremo ospite anche Mattia Feltri, magari due chiacchiere le facciamo su questa settimana, per carità, lo dico, decisiva per la politica. Ma soprattutto quello che mi ha colpito è la decisione, l'annuncio che ha fatto ieri il sindaco di Milano, anzi l'altro ieri, il sindaco di Milano Beppe Sala, sulla questione del fumo. del fumo. Io lo so, mi sono subito schierato dalla parte del sindaco e contro i fumatori. Questo l'ho fatto sui social, attirandomi le critiche ovviamente di tantissime persone. Sala ha detto, ha annunciato, nel 2030 Milano sarà smoke free, nel senso che in tutti i luoghi pubblici, sarà vietato fumare. Ha già detto per esempio che non si deve più fumare nelle stazioni, nelle pensiline, sotto le pensiline, in attesa degli autobus. Non bisogna fumare. Peraltro, io non lo sapevo, ma è già in corso il divieto nei luoghi pubblici tipo parchi, nei luoghi dove ci sono i bambini, quindi magari vicino alle giostre dei bambini. Il problema è questo: non si dà una multa a nessuno. Per esempio, c'è la famosa multa per chi butta il mozzicone di sigaretta a terra. Non è mai stata data una multa, che io sappia, a nessuno. Almeno qualcuno, qualche sfigato che ha preso la multa ci sarà. Però io dico sì, avanti con questa linea. Molti mi hanno detto, ma ti credevo più liberale. Infatti sono talmente liberale che amo la mia libertà. Voglio stare sotto la pensilina di un autobus senza che nessuno mi fumi addosso. Va bene? Non fatemi gridare, che sennò perdo ulteriormente la voce. Quindi basta fumare, fuma a casa tua. Il mozzicone di sigaretta, non sai dove metterlo, c'è sempre il famoso consiglio di Vittorio Feltri. Mi sono arrabbiato moltissimo con una persona che mi era vicino, che davanti a casa mia ha buttato un mozzicone a terra, e io l'ho rimproverato, ma perché butti il mozzicone a terra? Dice, ma dove posso metterlo? Guardi, io un'idea ce l'avrei, se lo infili nel culo acceso. Eccolo qua, la linea Vittorio Feltri. Quindi sul fumo io la penso così, non che dobbiate, come dice Vittorio Feltri, mettere il mozzicone, però linea dura e colpire e vietare. E poi quando si lamenteranno, va bene. Pazienza, faremo una battaglia contro i fumatori lamentosi. Ragazzi, non lo so se ce la faccio arrivare fino alle 11 con la voce. Manda un po' di musica, Pippo. Maledetto Rebic. Allora, signori, però voglio introdurre il primo ospite. Mi ha colpito la legge allo studio del governo attuale in tema di maternità, o bisognerebbe dire maternità e paternità, perché l'idea è quella di guardare alla Svezia, stato che sicuramente dal punto di vista di questa tematica è più avanti e più aggiornato rispetto all'Italia e rispetto a tanti altri paesi, e è allo studio quello di concedere 6 mesi di maternità, sarà per i padri e quindi per i papà. Già 1,5 è comunque uno sbilanciamento, però è innegabile che la mamma per la fase dell'allattamento sia più importante per un figlio e più necessaria, è anche innegabile, almeno nei primi giorni di vita. Però l'idea è quella di garantire anche più spazio ai papà per rimanere a casa. Allora, io ne voglio parlare con un imprenditore che di figli ne ha fatti pochini, 8 per la precisione, un imprenditore che è stato, giusto per dire, fino a qualche tempo fa a capo del colosso mondiale WPP. Ha raccontato in un'intervista a Stefano Lorenzetto di recente che all'apice del comando suggeriva a 900 clienti, si parla di comunicazione, la strategia per la pubblicità, e aveva da calcolo a spanne 1300 spot al giorno che passavano in TV e che in qualche modo erano gestiti da lui. Si tratta di Marco Benatti, che saluto, grazie per essere qui, Benatti. Buongiorno. Grazie per l'introduzione. 8 figli. Gli 8 figli sono molto di più dei 1000 spot al giorno. Ma infatti mi ha molto colpito, perché in questa intervista lei a un certo punto dice: guardate che il successo, sembrano frasi fatte, ma in realtà lei ci deve deve spiegare questo. Il successo è effimero, i soldi vanno e vengono, solo i figli rimangono per sempre. Ed è per questo che lei già tanti anni fa ha preso questa decisione di dire: io voglio stare il più possibile con i miei figli. Ci spiega il perché? Sì. Guardi, io ho avuto una vita come imprenditore sempre sull'innovazione, quindi tante start-up, e le start-up comportano una dedizione quasi totale. Uno si porta le idee, i sogni a casa. Io poi lavoravo a Milano e avevo la famiglia, la famiglia a Verona, e quindi di fatto ero un padre da weekend. Amando i bambini sempre, mi entusiasmano, mi emozionano, mi piace stare con loro, vederli crescere. Avevo sempre questo senso di un po' di colpa e un po' di mancanza. Nel 99 esattamente, quindi circa 21, quasi 21 anni fa, ho visto che il direttore della CIA allora si era ritirato per dedicarsi al figlio che stava per nascere, e questa cosa mi ha messo in crisi. Se una persona che è arrivata ai vertici mondiali di un'organizzazione così complessa, e quindi chissà che cosa ha fatto per arrivarci, oltre alle qualità, insomma, anche le relazioni e tutti i percorsi che avrà dovuto seguire, rinuncia a una posizione così importante, beh, allora se l'ha fatto lui, perché non posso provare anch'io? In quel periodo avevo una trattativa per cedere le mie azioni in Virgilio, ero uno dei tre fondatori insieme a Paolo Vigna e Carlo Gualandri, e ho deciso di vendere. Ho venduto le quote che avevo in Virgilio, ho venduto le altre attività e mi sono preso il tempo per stare, a casa. E lei ha raccontato anche in un'intervista a Repubblica che non gli uomini, i suoi colleghi, non hanno reagito benissimo, cioè l'hanno in qualche modo accusata di dire: adesso siamo costretti anche noi a farlo, insomma, di dare un cattivo esempio. Questa è la verità. Beh, insomma, non lì un po' generalizzato, in realtà non ho avuto contestazioni, diciamo che le battute così gentili che potevano essere erano proprio di questo tipo qui, però non tanto come opposizioni o contrasto, ma guarda, adesso facendo questo mi crei un problema in casa, perché devo loro prendermi il tempo anch'io. Quindi sì, soprattutto usando questa parola mammo, che è insopportabile, cioè lei ha sempre detto mammo, io faccio il papà, mammo è veramente... È un paradosso, se vuole, così memorizzabile facilmente, però in realtà non rappresenta nulla, perché il mammo non esiste, esiste il padre. La madre, esiste comunque la coppia. No, poi non si capisce, cioè non si capisce che danno si fa dicendo la parola mammo, perché già nel dire la parola mammo stai dicendo che quello è un ruolo che spetta solo alla mamma, e se lo fa un papà è una cosa strana, tanto che dobbiamo chiamarlo mammo. È insopportabile, invece. Sì, sono d'accordissimo, è proprio sbagliata la parola. Lei fa il papà. Non rappresenta esattamente, ma neanche lontanamente, quello che c'è. Ha un effetto sicuramente di memorabilità forte, però non rappresenta. Cioè, il padre ha un suo ruolo, la mamma ha un suo ruolo. I due genitori hanno ruoli quando sono affiatati, e anche senza entrare nelle schematizzazioni, ma insomma sono ruoli che si bilanciano e sono armonici per la crescita e l'educazione dei figli. Allora, si parla di modello svedese, che è quello in cui tra l'altro i due genitori decidono proprio come suddividersi il congedo. In questo caso in Svezia potrebbe essere addirittura sbilanciato ed è più tempo a casa il papà. In Italia si punta alla divisione 80-20%, no? 80 la mamma e 20 il papà. Le sembra possibile da imprenditore in Italia, perché non solo da papà, ma da imprenditore, come la vede? Da imprenditore io credo che la cosa principale, dovendo pensare ai propri dipendenti, quindi non tanto al caso singolo dell'imprenditore che ha delle libertà di scelta che sono abbastanza esclusive rispetto alla normalità, proprio perché avendo un'azienda sua, avendo un'azienda che rappresenta, può fare delle scelte con maggiore autonomia. Io credo che quello che conti sia cercare di avere delle persone che lavorano con te che siano in armonia con se stesse, quindi anche con un rapporto familiare non teso. Questo cosa vuol dire? Che al di là della schematizzazione 20%-80%, all'inizio uno, se sta a casa, se un uomo sta a casa, non sta a casa per fare il padre, diciamolo. a casa per assistere almeno nella fase iniziale, sì, la moglie che ha partorito, che ha sicuramente delle esigenze di affetto, di attenzione, ma anche delle fatiche, e che qualche ora di attenzione è molto molto utile, può fare molto bene. Proprio per tenere questa armonia, questo. Però il padre incomincia a farlo uno dopo un anno circa, adesso al di là del mese più, mese meno. Il primo anno il piccolino, la piccolina è tutto della madre, quindi direi che il primo periodo la persona deve pensare casomai al rapporto con la moglie, il rapporto di famiglia. Incomincia uno a avere rapporto vero con i figli quando incominciano a capire un po', quindi dopo il primo anno. E quindi secondo me è proprio andrebbe spalmato nel tempo, con settimane corte, con permessi particolari, con magari un po' di home working che deve essere sempre più, deve aumentare come quota, in modo a permettere alle persone di avere una vita familiare con maggiore armonia, con del tempo da dedicare anche ai figli, alla moglie o alle mogli, ai mariti. Sì. Ma poi bisogna fare attenzione in questi giorni, bisogna essere sempre attenti a quello che si chiama la parità di genere, quindi è reciproco ed è giusto che anche le donne abbiano le loro attenzioni e le loro protezioni, però punterei più a quello. Quindi, sì, diciamo che all'inizio è proprio un aiuto concreto, un aiuto. Sì, un non aiuto... è un aiuto del padre, è un aiuto del marito, ecco, che può servire se la moglie e la compagna non ha altri aiuti da parte della famiglia, da tante famiglie che sarebbe necessario. Se ho capito bene, dal punto di vista del lavoro, lei Benatti ha anche già messo in pratica questa idea del dire stacco il giovedì sera e riprendo il lunedì. Certo, non tutti possono permetterselo, ecco, c'è anche da dire che per molti è difficile conciliare un lavoro che spesso è anzi spalmato su 7 giorni su 7 ormai, magari a turni, e la famiglia. Una volta era così, era molto difficile, io questa scelta l'ho fatta 21 anni fa, oggi è molto più facile, perché oggi io per esempio sono tornato da un anno a vivere a Verona, da Milano, e io a Milano vado martedì, mercoledì e giovedì e torno la sera, mi faccio il pendolare, ma io mi prendo anche il lunedì a casa, ma riesco a lavorare benissimo anche il lunedì, perché ormai con le nuove tecnologie, videoconferenze, collegamenti vari, non c'è bisogno della presenza fisica in molti lavori, poi ci sono i lavori manuali che hanno bisogno chiaramente del timbrare il cartellino, come si diceva una volta, e la presenza fisica, ma per molti lavori c'è la possibilità di organizzare, se l'azienda vuole, anche del home working, e questo vuol dire lavorare sui risultati delle persone, su quello che fanno, su quello che producono, non tanto su quante ore fanno in ufficio. È un problema di mentalità proprio delle aziende, della legge che deve prevederlo, ma delle aziende e degli imprenditori. Sì. Mettere a disposizione questa maggiore flessibilità, che può solo portare del bene, perché quando migliora l'umore delle persone, migliora anche la loro produttività. Insomma, è una visione abbastanza illuminata, non so quanti abbiano una visione così illuminata, c'è sempre più l'atteggiamento del carabiniere che ti deve un po' controllare, stare 8 ore in azienda, 6 ore in azienda, 7 ore in azienda se hai vari turni, e dire devi stare qui, magari sei meno produttivo ma ti devo controllare. Però mi sembra che questa invece la sua sia una visione più illuminata e anche efficace e più produttiva dal punto di vista dell'ottica aziendale. Intanto io la ringrazio, Marco Benatti, grazie, la lascio ai suoi figli, visto che è lunedì, alcuni sono piccolissimi, hanno appena un anno. 2 anni e un anno. E insomma, 8 figli, Marco Benatti, imprenditore, 8 figli. La coda dell'intervista l'ha colta anche Mattia Feltri, che saluto, della Stampa. Buongiorno Mattia, 8 figli, non so se ti rendi conto. Buongiorno a voi, io mi sono fermato a 2. Va bene. So. Però diciamo ho pareggiato i conti con la mia esistenza, 2 eravamo e 2 ne siamo. 2 siamo e 2 ne lasciamo. Ah, va bene, giusto, mi sembra giusto. Anche perché siamo 7 miliardi sulla Terra, forse per figli non è così. Eccolo. No, cioè diciamo, ognuno fa quello che ritiene. Per l'amor di Dio, non penso che debba esistere una regolamentazione delle nascite, però diciamo, se tutti facessero 8 figli tra 20 anni siamo 35 miliardi. Sì, sì. No, anche perché sennò, caro Mattia, ti dà già a me danno il Mao, del Mao Zedong o del comunista. Tu, se parli di regolamentazione delle nascite, insomma, no, per l'amor no, di Dio, no, per carità. Allora, io ho chiamato Mattia Feltri per parlare di un argomento molto vivo e vibrante, cioè il tema delle librerie. Tra poco ne parliamo, però ti devo anche fare una domanda noiosa sull'attualità, insomma, che tu seguirai questa settimana. È la dai, ti faccio la domanda così la scartiamo. Dai, la settimana in cui rischia di cadere il governo? Ma sono tutte le settimane in cui rischia di cadere il governo, anche quando c'era il governo scorso, il Conte 1, erano sempre le settimane in cui poteva cadere il governo. Mi sembra che sono governi, ma dico una banalità, messi assieme in modo così estemporaneo, così poco omogeneo e così basato sulla convenienza lì per lì, dell'oggi, se non per il domani al massimo, che poi rischio di cadute si fa naturalmente, cioè è una casa costruita senza fondamento, quindi una scossarella fa... Va bene, l'abbiamo smarcata, basta, così non ci possono dire che non abbiamo parlato di questo. No, io ti ho chiamato per questa tematica molto interessante, che poi approfondiremo anche alle 10, sul tema delle librerie che chiudono. L'ho fatto e partiamo da lontano, dall'India. Leggo una notizia oggi sul Corriere della Sera: come è stato accolto in India Jeff Bezos, cioè colui che ha creato Amazon, malissimo. Cioè anche lì critiche, accuse, pensa che ha chiesto e ha detto e annunciato creerò 1 milione di posti di lavoro in 5 anni. Oddio, questa l'avevamo già sentita in Italia. Questa l'avevamo già sentita però, vabbè, 25 anni fa, sì. Forse lui lo farà. Mi è venuto in mente adesso che l'avevo già sentita questa. In India, beh, è stato accolto da critiche, accuse, il sistema Amazon, no? Ebbene, tu nella tua rubrica sulla stampa la scorsa settimana hai parlato proprio di Amazon e librerie che chiudono, per dire che in fondo non è poi il male tutto da una parte e il bene tutto dall'altra. Perché secondo te non si può fare questa distinzione tra bene e male? No, io intanto segnalavo che, per esempio, per l'attività che mi compete, che è quella del giornalismo, purtroppo i giornali continuano a perdere copie e quindi chiudono le edicole, quindi si riducono le redazioni. Poi abbiamo visto che da altre parti del mondo, neanche tanto distanti, la soluzione si è trovata, i giornali hanno ricominciato a prendere aria, ma insomma questo è tutto un altro discorso. Invece, per quanto riguarda l'industria libraria, tutti gli anni, se voi andate a vedere, è stupendo, perché tutti gli anni c'è il titolo sorpresa, aumentano le vendite di libri, ma succederà da 6-7 anni consecutivi. Meno male, quindi, perché partiamo da un livello di lettura molto basso. Quindi... Partiamo da un livello di lettura molto basso, però sì, lo dici una cosa giusta, però intanto cresce. Poi molti, poi sai, ogni tanto i librai ti dicono sì, ma sono quasi tutti libri per ragazzi. Cioè l'incremento si deve in gran parte ai libri per ragazzi o per adolescenti. A me sembra... Meglio, ulteriormente una vivranno a lungo. Ma tra l'altro, sai, sono ragazzi che vivono di PlayStation, di Netflix, di YouTube, inutile fare l'elenco, e quindi però trovino lo stesso la fascinazione per il libro interessante. Dopodiché anche a me dispiace che chiudano le librerie, perché io sono uno che ama librerie, cioè io molto raramente compro dei libri su Amazon, li compro solo se faccio fatica a trovarli. Sto parlando di libri rari, qualcuno è equivocato e mi ha, diciamo, redarguito molto duramente che su Amazon non si trovano i libri rari. Non parlo di libri rari, parlo di titoli secondari. Se tu stai cercando un titolo di Steinbeck che in libreria fai fatica a trovare perché ci sono sempre quei 7-8, probabilmente o quasi sicuramente su Amazon lo trovi. Quindi, e quindi uno alla fine cosa fa? Cioè se la libreria, se la libreria è conformizzata, per cui trovi sempre gli stessi libri, pile di libri sulle novità, per carità, debordano gli scaffali del libro del momento, ma poi chiedi un libro un po' più approfondito e ti dicono arriva tra 7 giorni, uno cosa fa? Va a casa, fa 2 click e se lo compra. Questo. Ma ti faccio un esempio pratico, perché secondo me sbaglia, c'è proprio un errore di fondo. Dumas ha scritto, credo, 6 o 7 libri, che è il ciclo della corona. Io ho letto soltanto il primo, che si chiama Cagliostro, l'ho trovato da una casa editrice di cui nemmeno ricordo il nome, e il libro era anche pieno di refusi, per dire come era stato fatto. i sei successivi non si trovano più. Allora diciamo, io continuo a cercare su Amazon, ogni tanto me ne salta fuori uno, ma lo prendo, ripeto, non sto parlando di una prima edizione, di un libro raro, sto parlando di un libro ristampato. Allora questo, però vedi, ti faccio un secondo esempio. Io l'altra mattina sono andato a una bellissima libreria Einaudi, che è via, praticamente una traversa di via Merulana, piccola e molto bella, e ho preso due libri di Saer, che è uno scrittore argentino bravissimo, che avevo ordinato, e io chiaro che quei due libri lì avrò pagato, mi pare, 35 euro. Se li avessi preso su Amazon avrei speso probabilmente 27 o 28. Però io ci metto su una tassa, che è la tassa goduria di andare nella libreria. Quindi mi dispiace che chiudano le librerie, ma segnalo che i lettori crescono. I lettori crescono. Ma quale dovrebbe essere, secondo te, la ricetta da lettore, da consumatore di libri, delle librerie che si specializzino sempre di più? Devono essere, secondo me, molto più rapide nella consegna dei libri che tu ordini. Cioè, io per esempio vado spesso nelle Feltrinelli, che mi piacciono così, anche se, come dicevi tu prima, danno proprio l'impressione di essere che come Starbucks, no? Tutte uguali a se stesse, sì. Insomma, queste novità che spesso sono, vabbè, insomma, l'abbiamo detto. Però se io cerco un libro e chiedo al libraio di procurarmelo, non mi può rimandare a 10 giorni, mi deve rimandare a 2 giorni. Però dico, non so, ti dirà il distributore, non lo so, è chiaro che ti dirà la filiera, l'editore, il distributore, non dipenderà certamente dalla libreria in sé, ci sarà tutta una filiera di consegna, però è chiaro che dall'altra parte c'è un competitor che nel giro di 24 ore ti porta a casa comodamente lo stesso prodotto. Insisto, ed è un libro, quindi è una cosa. Dopodiché su Amazon si possono fare mille discorsi, qualcuno sostiene, io non ho la competenza per sostenere queste tesi, ma si dice che faccia dumping, insomma ci sono il fisco, le tasse che non vengono, cioè ci sono dei problemi da risolvere. Però Amazon è un mondo che c'è, e pensare di abbattere Amazon per riaprire le librerie è come abbattere le filande, eccetera, eccetera. Certo. In ogni caso, Mattia, ti lascio ricordandoti che Jeff Bezos ha scatenato le proteste dei piccoli commercianti in India, scesi in piazza a protestare. Come vedi, tutto il mondo è paese. Vedremo se tra 5 anni ha mantenuto questa... Oh, mica in... Quanto l'aveva promesso Berlusconi? Nel giro di... Non lo so. Nella legislatura, 5 anni. Bene, è arrivato... Bezos ha detto 1 milione di posti di lavoro in 5 anni, in India però. Grazie Mattia Feltri, grazie per essere stato con noi. Allora, grazie, sempre un piacere, buona giornata. Dobbiamo andare un attimo a sentire la pubblicità, e poi c'è Leonardo Lentopede Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Le schifezza, erano mesi che non parlavi di calcio, ma hai vinto una partita al 94esimo e parli pure di calcio. Oh, già è Blue Monday, giorno della tristezza, ma siamo sicuri che deve venire in maniera anche stamattina? Buongiorno Milan, sicuramente oggi Manera non viene. Auguri per un Blue Monday, Manera, tanti auguri. Eh sì, oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Devo dire che pensavo di non venire stamattina, ho avuto dei grossi dubbi, perché ero lì in pigiama a casa mia. In pigiama. E la tentazione è stata forte, quella di rimanere in pigiama a trasmettere da casa. Però ho pensato, lo faccio domani. Domani non vengo e sto in pigiama con la mia... Anche perché ci devi raccontare com'è andata ieri col clown Neronello all'oratorio di Castel San Giovanni. È venuto il prete. È venuto, certo, a salutarmi, sì. Ovvio. E tu non sei andato... No, ovviamente no, però mi ha salutato, abbiamo fatto una foto insieme. Mannaggia. E quindi è stato anche gente. Non sembra neanche un prete, devo dire, questo signore che fa il prete lì a Castelsano. Questo signore, non, secondo me, non è un vero prete. Millanta di essere un prete, ma invece è, secondo me, poi è uno che va in giro, cerca delle donne. Ma no, smettila, non dire queste cose. Sì, che, si no. Vede perché non si presenta con l'abito talare. Vabbè, va in giro vestito in borghese. Borghese, mica sì. Un poliziotto. Ma io credo che non sia un vero prete. Comunque. La mia sensazione è quella. Allora, abbiamo iniziato la trasmissione raccontando di questa Milano che forse diventa smoke free. Il sindaco Sala ha detto che dobbiamo diventare come la Svizzera. Non ho capito perché la Svizzera. C'è un po' di paternalismo, però, in tutto questo. Ma chi se ne frega della Svizzera? Lo stato etico. Sempre guardare la Svizzera. La Svizzera è il peggiore dei paesi possibili, secondo me. Chi se ne frega della Svizzera? Vabbè, comunque. Posso intervenire? Oddio, c'è Elisabetta Fuscoli. Parli di Svizzera. Adesso. Parli di Svizzera. Esattamente. Siccome avevo già ascoltato dei preamboli in redazione prima della diretta, in cui appunto sentivo insulti indirizzati alla Svizzera. No, insulti mai, insulti sì, mai. Sì, come al solito, la Svezia. Come al solito tocca a noi esportare qui civiltà. Civiltà, vabbè, tocca a noi. Intanto vive in Italia, ti ricordo Leonardo Manera, che fa la Svizzera, sì. Fa la Svizzera, ma con tutti armi e bagagli qui a Milano, no? Metti allora dall'altro punto di vista, necessitiamo sempre di importare civiltà, casualmente poi spesso questa giunge dalla vicina Svizzera, ma sarà un caso. Io in realtà sono qua. Sì. In Svizzera i laghi sono freddi comunque. Sì, sì, sì. In Svizzera sono anche ostili. Non puoi neanche fare il bagno al lago, non c'è il mare. Non abbiamo il problema vai al lago, c'è il lago gelato. Prova ad andare a cena dopo le 20 in Svizzera. Non può. Trova un ristorante aperto. Sabato chiude tutto alle 5. I laghi sono freddi, puoi neanche dire. Abbiamo ovviato il problema delle alghe, Leo. Sono chiusi i negozi, vado a fare il bagno, no? Metti un attimo in seconda. I laghi sono gelati. Metti un attimo in seconda fila la macchina in Svizzera. Ma figurati, a me non è inseguito. Ti ricordi che mi avevano inseguito due signore anziane? Vabbè, tu fai spaccio. Si sa di contrabbando, vabbè. Cosa sei venuta qui? Allora, attenzione, Elisabetta Fusconi fa le irruzioni. Cosa sì, sei venuta sono qui ovviamente a dover colmare una lacuna informativa di quei 7 autori colpevoli. Va bene, cioè? In pratica Harry ha rotto il silenzio. Harry, chi? Il duca. Harry, il duca, ha parlato per la prima volta, ha spiegato all'intero mondo, al globo, a tutti il perché. Pronto. Ma come sentiamo? Ci ha portato anche il contributo audio. And I know I haven't always gone right, but as far as this goes, cioè stiamo parlando dei reali, ex reali, non so come devo chiamarli adesso, tu sai tutto. I duchi di Success. Allora, com'è che si chiamano i duchi di Sussex? Sussex. È una cosa sessuale. Sussex. No, il titolo l'ha tenuto. I duchi di Sussex. Cos'è? I Sussex? Come che si dice? Ma un po' quella roba lì, diciamo che hanno mantenuto allora. Il titolo, hanno ridotto gli sbattimenti, se si può riassumere così. Niente, ha detto no options, io ero convinta di essere in presenza del classico uomo options, obnubilato dalla moglie, ma invece no, siamo oltre, qui evidentemente... Un uomo deciso. È un uomo determinato, ha parlato al singolare, ha detto io non avevo altre scelte. Stiamo parlando dei reali d'Inghilterra, sono le 9:42 minuti. Detto, io non avevo altre scelte perché la moglie lo ha obbligato no, in questo qui senso. No, io temo che sia la regina che l'abbia combinata enorme, che insomma non abbia reso la vita felice alla coppia, soprattutto diciamola tutta la regina, questa Meghan è sempre stata un po' indigesta. Attenzione però, arriva una domanda fondamentale da Gabriella. Potete chiedere a Elisabetta Fusconi se è vero che in Svizzera esistono cinema con letti matrimoniali detti zona VIP. No, sono divanetti. C'è non anche letti. A Milano. Do l'informazione che io c'è leggo, anche a Milano. Io leggo il messaggio. Allora, non sono così avvezza ad andare al cinema in Svizzera, però mi risultano esserci delle 5, file. Tra l'altro. Perché noi andiamo a letto presto, non si va al cinema di sera. A che ora si va a letto in Svizzera? Beh, un buon 9:30. 9:30 spegni tutto. 9:30. Bon. Ha sentito, hai detto bon. Bon è la tipica, no? Bon. Comunque confermo esserci un 2-3 file di divanetti. Ma va bene anche a Milano per esempio, se vai in centro c'è un cinema in centro dove ci sono proprio, c'è il cinema zona VIP, anzi c'è tutto un cinema così che tu ben conosci, Leo, perché sempre, l'hai frequentato, sono sempre lì fisso, no, lì dove c'è il letto, sì, quello. Ma sono andato ma da solo, pensa che amarezza, no, per stanza. Cinema da solo. Sì, sì. C'è anche un saluto a Elisabetta, era in classe con me al Manzoni, ti saluta Diana, cioè siamo a questi livelli di caramba. Diana, che carina. Che carina, non te la ricordi? No. È inutile, che sì, carina. Sì, no, era bionda, Diana, sì, bionda. Sì, sì, ricordo era di te. Bionda. Cercava sì, sì, sempre uomini. Se non mi passava mai le versioni di greco, Diana, questo ricordo. È vero che cercava sempre uomini, è per quello sì, che era definita la dea della caccia. Era sempre un po'. Io comunque ho assolto il mio compito. Va bene, hai assolto il tuo compito, puoi tornare a non lavorare, perché se ti occupi di queste notizie, a noi non interessano, non interessano. Ci chiedono anche che voce sexy è Elisabetta. No, aspetta, ci devi dire in conclusione Elisabetta, noi la chiamiamo Baba. Come va le richieste di amicizia per l'Elisabetta Fusconi Fan Club? Potete chiedere a tutti, diciamo, l'amicizia su Facebook. Sono piovute in abbondanza, ma non uno che abbia versato l'obolo da 50 franchi. 50 franchi. Ricordate che si paga in franchi, qui non c'è l'euro, ma in questa strana nazione c'è ancora una moneta un po'... così. Beh, che ha un suo valore. Quanto vale il franco svizzero? Come l'euro, credo. Quanto vale? Un po' meno dell'euro. Un po' meno, vedi? Sono un po' meno. Un po' meno di noi. Devo anche dire che in Svizzera, però, c'è un pubblico meraviglioso nella Svizzera italiana. Sì. Quando mi ho lavorato lì, mi sono sempre trovato bene. Vero, c'è del calore, Leo. Molto, sì. Tipico calore svizzero. Il tipico calore svizzero. Cioè, famosa la Svizzera per il calore della gente. Guarda, che è vero. Io ho avuto anche una fidanzata che era. No! Ci sono i laghi ghiacciati, però, c'è del calore dal pubblico e dalle fidanzate. Allora, vabbè, lasciamo stare. No, io lo aprirei per un capitolo. Dai. Adesso non sto a dire... Era una ragazza molto benestante, però. Era benestante. Sempre per i luoghi comuni. Perché non esiste. Andava con Rolex. Va bene, sì. Questa ragazza, io ero un periodo, forse l'ho già raccontato, quando avevo la macchina color rosso fegato, la Station Wagon color rosso fegato, che in quel periodo era sempre dal meccanico, quindi avevo noleggiato una macchina. E lei non sapeva quale fosse la mia vera macchina. Quando poi sono andato a prenderla con la mia Station Wagon rosso fegato, mi ha detto: ma veramente questa è la tua macchina? E ti ha mollato. Sì. Non l'ho vista mai più. Mai più. Questa sì, ce l'avevi già raccontata. Però è bellissimo sentire il colore rosso fegato. Però io oggi che è il Blue Monday non l'avrei raccontata. No, infatti. Aumenta la mestizia generale di tutti noi. Signori, è il Blue Monday, giorno più triste dell'anno. Ringraziamo Elisabetta Fusconi. Chiedono una voce femminile in trasmissione, soprattutto se vuoi al posto mio, visto che almeno chiedono una voce in trasmissione. Perché ieri ti sei sgolato allo stadio. Va bene. Tu c'eri anche a mio fianco. Hai esultato così. Gol. Non Goal. Potevo esultare perché ieri sera poi sapevo che avrei lavorato e quindi non potevo perdere la voce in previsione della serata, che avrei fatto in serata. Vabbè, Fusconi se ne va così di soppiatto, come un amante che scappa, esce dal letto e se ne va. E se ne va, si impunta di stare maleducata. No. Niente, vuoi annunciare il traffico a sto punto? Allora, vi saluto tutti. Buona continuazione. Il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, attenzione, ci scrive Don Paolo da Castel San Giovanni. Eccola qua la foto, e dice: Manera è modestissimo perché lo spettacolo di Neronello è stato stupendo. Non lo dice solo per non farsi troppa pubblicità. No, certo, ma lo so, è un grandissimo Don Paolo, si firma Don Paolo. Per me non è un vero prete, ripeto, millanta questa cosa. Ma non è vero, ma perché tra l'altro propone, sono sempre Don Paolo, se proponessi un corso di genitorialità, sempre a Manera, qui in oratorio, sempre ovviamente. Ma io ormai, mio figlio è grande, non ho più bisogno, ha 10 anni, quindi ormai... No, tu devi insegnare, non è che tu devi insegnare un corso di genitorialità, tu devi... Ma sì, se mi pagano lo faccio, ecco, se mi pagano bene vado. Ecco, vabbè, che vergogna. Allora, vabbè. Dunque... Come avete sentito, oggi si è parlato anche di figli, di paternità, del congedo che dovrebbe riguardare anche i padri una volta che sono diventati tali. Io sono d'accordo, quando nacque mio figlio scelsi di stare un mese a casa per provare ad aiutare la madre di mio figlio e perché no, per provare a vivere fino in fondo quella sensazione così nuova, in qualche modo irripetibile. Non fui un campione in questo senso, ma ci provai. Situazione irripetibile nel senso che una volta fatto un figlio e verificate le difficoltà che comporta, economiche, di coppia, logistiche, prima di farne un altro bisognerebbe pensarci bene, ma molto bene. Insomma, solo dopo aver constatato la solidità dell'amore ci si può proficuamente lanciare verso l'obiettivo di una famiglia numerosa, che è sicuramente un obiettivo apprezzabile che può dare la felicità, ma solo se la coppia ha delle fondamenta di ghisa, che di questi tempi non è cosa comune. Per i padri poi è un po' più complicato rendersi conto della nuova situazione che si viene a creare. La madre cresce il bimbo dentro di sé, pur tra nausee ricorrenti. Il padre può, nei mesi della gravidanza, fare poco. Ad esempio appoggiare sulla pancia la mano per far sentire che esiste il padre al bimbo. e il bimbo in tutta risposta spesso su quella mano dall'interno assesta un calcione, come dire tu chi sei, cosa vuoi, lasciami in pace. Ma il padre si accontenta anche del calcione ricevuto dicendo a tutti è già vivace. No, non è vivace, sta solo prendendo a calci la mano del padre. Se è così già prima che nasca, c'è da supporre che nell'adolescenza diventerà una fonte inesauribile di problemi. Poi il bimbo nasce. Ora il padre può anche assistere al parto. Momento di difficoltà e anche di grande dolore, qualche volta per la madre. E in effetti il padre, che cerca di comprendere la situazione, quando assiste al parto resta lì, in silenzio, a prendersi parolacce da parte della madre. Poi appena nato il bimbo viene attaccato al seno della madre e si tranquillizza. Viene staccato un attimo per consegnarlo nelle mani del padre, che può finalmente vedere da vicino il frutto dell'amore genitoriale. Ma appena messo tra le braccia del padre, il bimbo si scatena in urla che si ripeteranno inevitabili per molti mesi a venire, mettendo a dura prova la solidità familiare. Però almeno i primi mesi, il primo anno di vita del bimbo, la madre ha un ruolo chiaro e definito. È la madre. È quella che ha dato la vita al bimbo, che spesso lo allatta. È quella che più di ogni altro può tranquillizzare la creatura quando piange. Il padre invece resta una figura a metà. È vero che ha collaborato in qualche modo a realizzarsi della situazione, ma è una collaborazione ormai datata. Risale molti mesi prima, non se ne ricorda più nessuno. E allora resta lì quando vengono i parenti o gli amici, sperando che qualcuno noti una somiglianza, in modo da poter dire orgoglioso, beh, si vede che è mio figlio. Ma il padre resta inevitabilmente in secondo piano, in ruoli marginali, per esempio andare a comprare i pannolini, o al massimo cercare di far addormentare il figlio, che però dorme bene solo tra le braccia della madre. Io per far dormire mio figlio mi ero fatto fare una maschera di silicone identica a quella della madre. La indossavo e poi cullavo mio figlio che finalmente si addormentava. Insomma, anche la condizione ai padri è complicata. Però sono favorevole al congedo al lavoro per paternità, così si può avere la coscienza a posto, non lasciare nulla di intentato. Quando arriveranno i turbolenti anni dell'adolescenza o per i genitori della crisi di coppia, inevitabile, anche il padre saprà di aver fatto il possibile, sapendo però che l'amore finisce sempre e comunque. Ma i figli restano e visto che bisogna occuparsene per sempre, per tutta la vita, tanto vale provare a farlo fin dai primi mesi. Senza rancore, anche se tuo figlio fin dall'inizio ti ha preso a calci sulla mano o sull'orecchio, mentre cercavi di sondare la sua misteriosa ma vivacissima presenza. Oh, bravo Leo! I padri bravo, non servono a niente. Niente. Il padre niente. Non serve a niente. Questa è la seconda insieme all'amore, finisce sempre comunque. I padri non servono a niente. Buon Blue Monday a tutti, vero, cari ascoltatori. Non è vero, i padri servono moltissimo. Dai. Sì, va bene. Adesso cerchi di rimediare. No, ma... io anzi, cosa farei se non pensassi di poter servire un po' a mio figlio? Oh ragazzi, non abbiamo parlato invece di questa, l'ennesima polemica di Sanremo, io non so se ce la posso fare. Basta, vabbè tanto, chi se ne frega. Il trapper, come si chiama, il trapper che nei testi di canzoni vecchie inneggiava la violenza, se ho capito bene, la violenza, lo stupro, mamma. Vabbè, c'è anche questo a Sanremo. D'altronde è... Chi è questo trapper? Sai che non lo so. Ho intravisto... Si chiama Junior Kelly. Tra l'altro si presenta con delle maschere. Non ho capito perché si presenti con delle maschere. Ma di bellezza? Cioè, non è come te che ti mettevi la maschera della mamma. dal figlio. No, si presenta con delle maschere così, guarda, delle maschere a coprire la faccia ogni tanto. Ma io non so, cioè mi sembra la classica storia generazionale di giovani contro vecchi. Io vado in macchina, metto su Guccini e mio figlio dice che bello, che vecchio. Solo che all'epoca nostra, quando i nostri genitori ci proponevano Claudio Villa, Toto Cutugno, dicevamo che palle, mettevamo i Doors, gli SDC, no? Bob Marley. Tutto adesso, serve... adesso i giovani seguono il trap, la trap come fino cavolo, ai 14 anni, 13, sì, dopo viene passa. Abbandonata. Meno male. C'è Mauro da Bologna, buongiorno Mauro. Vabbè, comunque non buongiorno, parleremo buongiorno di questa storia. Mauro, vai. Ma io penso in poche parole come voi, quando si era giovani si pensava ad altro e non si ascoltava mai i gusti dei genitori. Scusate se mi intrometto in questa discussione, ma insomma. No, volevo riferirmi a stamattina al signore, al dottor Benatti, che ha lasciato, diciamo, il lavoro. Ecco, diciamo che lei ha detto, o il presentatore, che ha una cosa molto illuminata. Bisogna fare i conti con la realtà, però. Eh sì, infatti. È una realtà molto illuminata diversa. Quando ha detto le aziende dovrebbero aprire più a home working. Invece le aziende ci vogliono in ufficio. Lo so. Ci vogliono, io lavoro in una banca, la realtà bolognese, mia moglie lavora in uno studio, quindi... diciamo la presenza, magari potessimo fare una scelta di questo infatti, genere, che noi come tanti ecco, in questo io ho detto Benatti ha una visione illuminata, mentre le aziende, come ho detto io, ci vogliono come i carabinieri lì a controllare l'orario di lavoro. Però mi devo fermare, Mauro, perché c'è il giornale radio che incombe. Guardi che sosteniamo la stessa idea io e lei. Allora dobbiamo andare al giornale radio, forse. C'è oggi, ci sono notizie o non è successo niente nel mondo? Sempre notizie nel mondo. Mica passano da noi qui a uno nessuno 100.000. Pensa che bello, se tutti stessero in pigiama a casa. Sì, come farai tu domani? Ciao. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao Milan, ho appena chiesto l'amicizia a Elisabetta. Metti una buona parola, va almeno te, che se aspettiamo Manera. Ciao Elisabetta! Grande Fusconi, grande! Viva la Svizzera, perché se la Cina è vicina, il Ticino è ancora più vicino. Dovrebbe ricordarsela Manera sta battuta. Capisco che il benessere vi vuol far riempire tutte le librerie, però c'è sempre la biblioteca dove trovi tutti i titoli possibili e immaginabili. Ragazzi, belle le biblioteche, però dai, il libro va tenuto in casa, cioè. Per arredare la casa? Per far vedere che sei un uomo di cultura? Ma anche se vuoi, tu sei uno di quelli casa. Che compra i libri no. finti? No, sì, no, li ho visti, no. Io ne ho 2000, ma perché erano di Francesca, soprattutto. Devo dire, effettivamente, lei li aveva letti tutti. I miei, quelli che ho io sono pochi, sono pochissimi, meno rispetto ai 2000. Sono... No, li compro. Quelli che apri e dentro si aprono e tieni le chiavi no. dentro. No, li compro a bucati, c'è cioè proprio una cassetta, solo dici no, li compro. Travestiti da libri antichi anche. E poi li leggo se ce la faccio, insomma, se ce la faccio. E se sono belli, ecco, perché alcuni li abbandono anche. Hai sentito la nostra Fusconi come... No? Sì, tra l'altro secondo me a lei piace venire qui a parlare. Certo. Ha quella sottile vanità femminile tipica. Perché tipica. Ha anche Miriam Lucchetti. Quindi... No, Miriam invece ha un carattere completamente diverso. È strano che tu lavori con loro da anni, ma ancora non hai capito quali sono le loro caratteristiche. Ma perché chi è Miriam dei due? Chi Babylon... Scherzo, dai, a me piace fare così perché così le prendo in giro, perché loro si arrabbiano. È bello. Miriam non ama venire al microfono, neanche Lorenzo, secondo me. Infatti, adesso vado a leggere la scaletta. Allora, prossimo ospite, ora dice Miriam Lucchetti Brianzola di Cantù in studio. Leggo la scaletta. Non so, c'è questo scritto sulla scaletta, però... Ma non viene, non viene Miriam. Peraltro hanno sbagliato anche il cognome. Abbozza, fa un gesto col viso, di mezzo sorriso, e dentro di sé pensa non mi rompere le palle, e intanto se ne sono alla sua postazione. Questo è il suo atteggiamento. Va bene. Dovremmo trovare allora una sfida Lucchetti. Sappiate che ci sono delle domande ogni tanto un po' strane che ci vengono poste. Se avete delle domande strane, delle cose... sulle quali volete sfidare più che noi Miriam Lucchetti, se volete lanciare una sfida Lucchetti, lei nel giro di un minuto risponde a tutto. Quindi se avete al 349 bella forza lì davanti 6, al computer 6, 6, 6. Cioè. Beh, non è che il computer dà una risposta a tutto, però al 99,9% dei casi lei riporta pari pari quello che c'è sul computer. Non è che ci metto del suo, legge. No. Poi sono io quello che ti tratta male, no. Miriam, no. Sono io quello che tu sei fuori concorso. Ha fatto questo gesto come dire sì, vabbè. È come, cioè, come dire, Manera è proprio è quello che dicevo prima, abbozza un mezzo sorriso, fa un gesto e intanto pensa sì, vabbè. Sì. Come avanti. Fanno moltissime donne, devo dire, un atteggiamento con te abbiamo scoperto sempre. Allora, non abbiamo oggi il Bomber Picci. Ragazzi, però devo raccontare questa cosa. Bomber Picci, che tra l'altro, auguri di una pronta guarigione, ha subito un piccolo stiramento, quindi abbiamo chiamato e adesso era in ospedale a fare un controllo. Non sarà niente di che, niente di che. Lo vogliamo a correre e assegnare sui campi. Ecco, assegnare. Dipende dall'entità dello stiramento. Ecco, assegnare. Però se non è uno strappo, se no, è solo uno stiramento. No. Sarà uno stiramentino. Un piccolo versamento forse ci sarà. Per dovere di cronaca, dobbiamo raccontare che ieri la partita del Vigor Trani, in cui milita il Bomber Picci, è finita 0-0. 0-0, quindi reti inviolate. Picci ha sbagliato un rigore. No, nel senso. L'abbiamo detto che era un periodo un po' di crisi realizzativa per il signor Picci. Sbagliato un rigore, ma Bomber. AP9, dai, hai sbagliato un rigore. Vabbè, si riprenderà il grande Antonio Picci, AP9. Il Bomber Picci però, cronaca nel tabellino, ha sbagliato. E poi si è anche stirato. Mandiamogli i nostri auguri perché possa tornare a segnare i rigori. Vabbè, non ho capito cosa vuole. Aspetta, c'è Giuseppe da Vicenza, poi dopo c'è un'incursione molto temuta. Giuseppe? Buongiorno, salve. Sì. Grazie. Allora, niente, era relativo alla questione della maternità di cui si parlava, maternità e paternità di cui si parlava prima. Sì. Secondo me il problema è anche comunque le durate, cioè dicono 5 mesi più uno, e già più uno è meglio di 5 mesi e basta. Ma se si pensa che per la legge 104, ad esempio, che è una cosa sacrosanta e per accudire le persone che hanno disabilità, e spesso viene applicata per accudire gli anziani ormai, in cui purtroppo l'intervento dello Stato è sempre abbastanza limitato, sì, ormai, e tutto sbilanciato sulle famiglie, ci sono 2 anni a stipendio completo per questo, ed è una cosa civilissima, ci mancherebbe. Quindi lì bisognerebbe prendere spunto dalla legge 104. Anni, però cioè, facendo un discorso veramente becero, se sono 2 anni per gli anziani e 6 mesi per i figli, non vi stupite se di figli se ne fa meno. Non so se è chiaro che da una parte è un paragone che regge a metà, perché la legge 104, come ha detto lei, è per l'assistenza e le varie forme di disabilità. Il figlio. Certamente, però mettere un figlio a nido a 3-4 mesi, io è complicato. Ne ho 2, è obiettivamente complicato. Allora cosa fai? Fai la facoltativa, che però giustamente noi fortunatamente come famiglia ce lo possiamo permettere, altre famiglie non se la possono permettere di avere una persona che prende il 30% dello stipendio. È tutto corretto, Giuseppe, dopo. È tutto corretto. Se ci fossero i nidi gratuiti per tutti, eccetera, cioè è un sistema di welfare che si deve reggere e allora diventa virtuoso. Eccolo qui, c'è Anacleto. Cosa vuoi, Anacleto? Ma cosa voglio? Un quarto d'ora che sono qui con questo freddo e vento. Mi hai messo un nota. Senti, che ne ha detto il bugiardo lì? Prima di tutto, buongiorno a tutti. Oggi non ha detto granché. No, come ha detto? Ha fatto l'auguri a Picci, quello lì rientra fra 2 anni. Porta male, ma No, non dire queste stupidate, che poi sono leggende stupide. La superstizione è una minchiata. Ti volevo dire una cosa della Svizzera. Ho sentito lì che c'è alle 5. Qui se, anche in Cina, se chiudessero alle 5 e mezzo, c'è un suicidio di massa. C'è i bar, allora, Che vuoi che ci sia? C'è un suicidio di massa se chiudono bar alle 5 e mezzo. È il momento bello della giornata. Si va a bere. Ma come, c'è a casa la moglie? Dovresti stare a casa con le mogli, con i figli. Lasciamo stare, giù, andiamo a bere un bicchierino di vino con gli amici, con Franceschino, con Baracca, tutti i personaggi storici della chiesina, qua, mia discorso. Cioè, quindi Anacleto dice, come si fa a vivere in Svizzera se i bar chiudono alle 5, alle 8, alle 7. Dipende. Che un apino neanche, Dio buono, se che chiudono, di pazienza, Maria. Dio santo. Maria, ciao Anacleto, ciao, buona giornata, buon Blue Monday. È il Blue Monday, Anacleto, è il Blue Monday, lo sai cos'è il Blue Monday? Anacleto ha messo giù. Ha riattaccato. Allora, per Miriam Lucchetti, perché l'essere umano piange anatomicamente? Questa è una prima sfida, Lucchetti. Seconda sfida, Luchetti. È vero che esistono le piramidi in Antartide? Due sfide, Luchetti. C'è il tempo del traffico e poi dopo vediamo se le vince, quante ne vince, come le vince. Uno, nessuno, 100 Milan. Miriam Lucchetti, voglio sfidarti, sono Fabio da Monza, brianzolo come te. I pesci bevono? Rispondi a questa domanda. Ma non è che è Piero Angela, eh? Però insomma, vediamo, c'è già una risposta. No, no, sfide Lucchetti. Ah, dice stavo chiamando l'ospite. Guarda, è come Pierino all'ultimo banco che non ha ancora vinto le sfide e quindi... Ma perché ormai Miriam fa quello che vuole, è autonoma. Ma sì, esatto. Rivendica un'autonomia da tutto. Sì, da tutto e da tutti. Allora, signori, abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione delle librerie. Avevamo ospite Mattia Feltri. Il punto di base è questo. Per esempio, le edicole chiudono, ma perché i giornali non vendono più. Beh, però vendono tante altre cose. Non sì. vendono solo i giornali, vendono sì. tutti i bustoni sorpresa per i vabbè, bambini, però la cancelleria, puoi mandare il fax sì. per chi lo manda ancora. Ma sì, il mio edicolante è anche un punto di raccolta pacchi Amazon. Quindi non chiudono, smentiamo subito questa cosa. Oh, però le edicole purtroppo, cioè se chiudono la spiegazione è i giornali vendono meno e quindi è anche si trasformano, ecco. Le librerie invece, si parlava prima con Mattia Feltri, il mercato del libro non è un mercato, è asfittico perché in Italia si legge poco, ma è in crescita in questi anni. Quest'anno per esempio è cresciuto del 4%, cioè si vende di più. E allora ci si chiede perché chiudono continuamente librerie. Noi ne vogliamo parlare, approfondiamo con Fabio Masi, che è un libraio, tra l'altro ha una libreria a Ventotene, una a Camogli, o quella di Camogli, perché la nostra responsabile dei programmi Alessandra Scaglioni da quelle parti ci ha scritto quella di Camogli è meravigliosa. Fabio Masi, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Non abbiamo colleghi di Ventotene, quindi non sappiamo, però sarà meravigliosa sicuramente, perché creare una libreria in un'isola così piccina, con pochi abitanti, intanto è una bella scelta. Lavorerà d'estate, immagino. In realtà un collega ce l'hai che viene a Ventotene, che è Federico Taddia. Ah, grande sì. Fede! Grande Fede conosce grande. Bene la libreria di Ventotene dell'isola. Grande. Allora, Fabio Masi, il tema è questo. Perché chiudono sempre più librerie? Certo, c'è Amazon, certo, poi lo chiedo a lei, certo che cosa? Perché si vendono più libri ma chiudono le librerie? Chiudono le librerie perché il mercato è mal regolamentato, questo è il problema di fondo, è che in Italia abbiamo delle regole che favoriscono le grandi concentrazioni, regole che non si riesce a cambiare nonostante il Parlamento sia passata alla Camera una proposta di legge prima firmataria Lanardini, legge che ci porterebbe, che fondamentalmente copia il modello francese, che è un modello vincente da anni, e che è ferma al Senato, non si sa per quale motivo. Legge che è passata alla Camera con il voto favorevole praticamente di tutti i partiti politici, eccezione fatta per Forza Italia. Questo è il tema di base, le regole del gioco non consentono, non favoriscono l'apertura di nuove librerie indipendenti e soprattutto rendono difficile la vita delle librerie indipendenti esistenti. Questo perché in Italia è possibile fare sconti molto elevati, cosa che è vietata per legge in Germania, e in Francia, come dicevo poc'anzi, il tetto massimo di sconto è quello del 5%. Sì, questo è uno svantaggio. Però prima diceva Mattia Feltri, è vero che se le librerie, magari quelle più piccoline, che non possono competere né con Amazon né con le grandi catene, si dedicassero a una sviluppo di rapporto con la clientela particolare, per cui c'è il libro ricercato, conoscono molto meglio il tessuto sociale, quindi i propri clienti, ecco che quelle librerie, come le sue, riescono a crearsi un proprio mercato. E questo è quello che facciamo tutti i giorni, però con le attuali regole non sempre è sufficiente, non sempre la passione, l'impegno, il rapporto di grande condivisione che si crea con i lettori, la comunità che si crea intorno alla libreria, non sempre è sufficiente per sopravvivere con questa tipologia di regole del mercato. Alcuni librai molto molto in gamba ultimamente sono stati costretti, come dire, ad ammainare la bandiera e a diventare dei franchising, perché il problema è che da un lato noi abbiamo una bassa marginalità, cioè riconosciuta una bassa marginalità da parte della distribuzione, e dall'altra siamo costretti a lottare in un mercato dove si possono fare sconti del 15%, e in questo quadro poi interviene la libreria di catena offrendosi di rilevare la libreria e di trasformarla in un franchising. Quindi c'è un'occupazione, sta avvenendo un'occupazione del territorio a favore delle grandi catene. Questo è un male un po' per il paese, per la democrazia, per la cosiddetta bibliodiversità, anche se è un termine che non amo moltissimo, ma questo è quello che sta avvenendo, no? Anche per esempio la libreria di Ventotene, per esempio. Ventotene immagino che d'inverno non abbia molti abitanti. Allora, la libreria di Ventotene è aperta 8 mesi l'anno. Inizialmente la tenevo aperta 6 mesi l'anno, adesso ho cercato di aumentare il numero di mesi di apertura. D'inverno ci abitano 200 anime, ma io vado via dalla mia isola, perché Ventotene è stata scelta come isola perché io provengo da lì, i nonni materni erano di lì, e i nonni anche di mia moglie sono ventotenesi, quindi diciamo che la mia è stata una storia d'amore per l'isola e per i libri, quindi il sogno che avevamo nel cassetto era quello di aprire. Però pensate che bello, tu sei a Ventotene, sei l'isola e c'è una libreria, meraviglioso, no? E come per magia si vendono tanti libri, a testimoniare che quando si fa un'offerta diciamo almeno dignitosa, e quando le persone hanno a disposizione del tempo libero, Non c'è online che tenga, cioè la forza di attrazione di una libreria, il piacere di passare il proprio tempo in libreria e magari di chiacchierare con il proprio libraio è qualcosa che non esiste sconto, anche se il discorso delle regole è fondamentale, non esiste sconto né Amazon che tenga. E poi la magia più bella che avviene, permettimi di continuare un secondo, è quella dei bambini. I bambini, sia a Ventotene che a Camogli, dove non corrono grandi pericoli e quindi sono più liberi di muoversi, di circolare, di giocare, vengono, passano buona parte del loro tempo in libreria a giocare. Sì. E quindi questa è la vera grande magia, la speranza per il futuro. Vedi, arriva un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: la libreria di Ventotene ha un'ottima sezione per ragazzi ed è diventata mitica in famiglia, perché finito il libro portato da casa ha permesso a nostro figlio di leggere per tutte le vacanze. Evidentemente sono partiti con un solo libro e poi hanno scoperto che c'è la libreria a Ventotene. Ma io per esempio i libri li prendo sempre in libreria perché non decido prima cosa comprare, vado in libreria anche. Giro, guardo e ecco, poi... Su questo però, Fabio, c'è una tematica. Io sono molto felice perché quando mia figlia entra, spesso andiamo alla Feltrinelli, è comoda a Milano, entra e dice: questo è il posto più bello del mondo, no? Ogni settimana va a prendere uno o due libri, è bellissimo. Però Fabio Masi dice: io sono un libraio che legge. Uno potrebbe dire è una cosa strana, invece in genere il libraio che vende libri dovrebbe conoscere i libri che legge. Molto spesso quando uno entra nelle grandi catene non è una critica, ma trova dei commessi che dicono: il libro, sì, fanno così, mettono in tastiera, ah sì, eccolo qua, prego, tenga. Cioè sembra che mi hanno dato una fetta di prosciutto, con tutto il rispetto, no? E cosa dovrebbero fare secondo te? Ma non lo farti so, un consigliarti, del libro. Dirti questo libro. Cioè uno potrebbe entrare dal libraio e dire: scusi, vorrei leggere un libro di questo genere, cosa mi consiglia? Tu non c'è più farlo. Nessuno che fa così. No, non è vero che non c'è nessuno, grazie a Dio non è così. Premessa, c'è spazio per tutti, c'è spazio per le librerie di catena, va bene anche paradossalmente Amazon. L'importante sono, e scusate se mi ripeto, divento noioso, le regole del gioco. Dopodiché è chiaro che nella grande dimensione in qualche modo si perde quello che è il rapporto uno a uno, è difficile creare quella condivisione di passioni, di amore, che è più facile creare in una piccola libreria. Quindi magari ci sono anche dei validissimi librai all'interno delle librerie di catena, che però fanno fatica a esprimersi. E per l'appunto ti faccio l'esempio del fatto che ultimamente, insieme a un libraio validissimo di una Feltrinelli di Milano, abbiamo, insieme ad altri amici, abbiamo rilevato una libreria che è storica, che stava per chiudere a Milano, che è la Cento Fiori a Piazzale d'Ateo, certo. E dove è capitanata da Vittorio, che è un libraio vero, lo era in Feltrinelli, ma adesso all'interno della Cento Fiori riesce, come dire, a esprimersi totalmente e completamente. Quindi dobbiamo creare le condizioni perché i vari librai, anche delle librerie di catena, possano lanciarsi e aprire librerie proprie, sì. Perché lo spazio c'è, lo dimostra il successo della libreria di Ventotene, quella di Camogli. Ci sono 13 milioni di italiani che non hanno un facile accesso ai libri perché non hanno la possibilità di avere la libreria nel proprio paese o di avere una biblioteca nel proprio paese, e questa è veramente una vergogna nazionale. E di questo purtroppo se ne parla poco e non si creano le condizioni per migliorare lo stato delle cose. Questo è il momento per farlo. No, ma infatti, visto che il mercato è in, anche seppur minima, crescita, vuol dire che c'è lo spazio. Allora bisogna come dire, appassionarsi e trovarlo. Io l'ultima volta che ho chiesto un consiglio a un libraio mi ha detto guarda su Amazon. Dai! In grande maniera amarezza anche nel comprare un libro. Vabbè. Dai, ringraziamo molto Fabio Masi, grazie. Librerie a Ventotene e a Camogli, sì. Vi abbraccio ragazzi, un abbraccio ovviamente. Libraio, sì, viva i librai sempre, come io dico viva gli edicolanti, categorie da proteggere, categorie sante. Allora devo dire che le sfide Luchetti sono state vinte da un po', ma dovevamo dare spazio all'ospite. La piramide in Antartide, il Nunatak. Ma tu ti rendi conto io cosa sono costretto a fare? Una struttura naturale molto regolare, questa l'ha presa da Wikipedia ovviamente, da Google. Ma scusa, tu puoi pensare che abbia una cultura così enciclopedica, no? Da sapere se c'è, no, per forza legge. Poi, tutto. I pesci bevono, i pesci d'acqua salata hanno liquidi corporei meno salini dell'acqua in cui vivono e corrono il rischio di disidratarsi. E dunque bevono. I pesci bevono. Sempre acqua salata però. Sì. Non è che fanno farsi uno spritz. No, non lo so. Scusa. Cioè, vedi una triglia lungomare, uno spritz, ma grazie. Perché se si disidratano a causa del sale, se bevono acqua salata, non sarebbe un buon consiglio che ti potrebbe dare un medico. No, bevendo acqua di mare espellono il sale in eccesso tramite speciali aperture nelle branchie. Senti, ma comprati un libro sui pesci, ma cosa vuoi da me? Ma sei tu che hai tirato in ballo l'argomento, chiede Mauro Meazza. Poi, scusami, gli esseri umani sono gli unici a piangere per ragioni emotive. Le lacrime, vabbè, poi c'è tutto uno studio, vabbè, insomma, adesso questo sarà un colpo leggere. Per gli affezionati dei cani, eccetera, che a volte dicono che il cane piange per ragioni emotive. Sono gli unici a piangere per ragioni emotive, questo. Secondo il dottor Michael Trimble, neurologo della University College London's Institute of Neurology, bene, gli uomini avrebbero iniziato a piangere per esprimere le proprie emozioni prima ancora di utilizzare il linguaggio parlato, cioè prima ancora di parlare proprio piangevano, lacrime copiose. Invece Mauro Meazza piange solo per motivi finanziari. Sì, un sì. Uomo così arido come e lui dal punto di vista emotivo per l'Inter ogni tanto. Ah sì, ma l'Inter vabbè, però la cosa che interessa Mauro Meazza è l'economia e il denaro. Io l'ho visto piangere solo per quello. Cioè quando guadagna solo il 28%. No, lui è, non so se tu hai notato l'abitudine di Mauro Meazza che ha, non so se l'hai in questi anni. Lui ha l'abitudine ogni ora, proprio allo scadere dell'ora, di contare i soldi che ha nel portafogli. Li estrae le banconote e fa ding ding ding. Ogni ora della sua giornata. Sì. A volte si sveglia di notte anche quando... E si nota che è meno di quello che immaginavo, oppure che ha dovuto sborsare qualche centesimo. C'è una lacrima che appare in fondo ai suoi condotti lacrimali. Ecco. Ragazzi, queste sono le caratteristiche di Mauro Meazza. Pensavo fosse conciato così, Mauro. Vabbè, sei un po' come la tua Inter, un po' in disarmo. Vabbè. Dai, andiamo alla borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta... Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come San Montana, che da Empoli ha conquistato il mondo dei gelati, dell'acquasanteria e non solo. Sentiamo uno dei titolari amministratore delegato, Leonardo Bagnoli. Noi siamo un'azienda che ha come concorrenti le multinazionali, le più grandi multinazionali estere nel campo alimentare. Replica Sistemi ci aiuta a competere nei nostri mercati e ci ha permesso di fare degli sviluppi importanti in ogni settore aziendale. Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Follower, follower, follower. Per avere un follower fai di tutto. Fai le foto all'auto, al cane, ai tramonti o alla Bresaola. Tu segui lui, lui segue te, girotondo, casca al mondo, casca alla terra. Ma quando hai bisogno? Per la tua polizza auto non servono tanti follower, ne basta uno serio, come Zurich Connect, online 24 ore su 24, che ti offre una polizza auto da 220 euro con l'esperienza svizzera del gruppo Zurich. Perché essere online è una cosa seria. Zurich Connect, online da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zurichconnect.it. Uno, nessuno, 100 Milan. In queste ore, no, a proposito delle elezioni regionali, ma è qualcosa di sconvolgente. Siamo alla fantapolitica. Chi mi dava per ministro, chi per presidente di società pubbliche, chi per presidente delle Nazioni Unite. L'unico cambiamento che sarebbe stato interessante, onestamente, è passare da governatore della Campania a governatore della Banca d'Italia. Questo sì. E beh, questo sarebbe stato interessante, tutto il resto, chiacchiere. Le ambizioni di De Luca, certo, le ambizioni di De Luca. Non fa altro che lamentarsi lui, però, in tutte queste sue esternazioni è sempre un lamento alla fine. No, sì, non c'è mai nulla che gli vada bene, ma insomma, da anni che lo sento è sempre così. Una cosa incredibile. Ha sempre da ridire. Una cosa, pensa avere uno così in casa, che parla dalla mattina alla sera, mamma mia. Altro che pentola di fagioli. Ma sarà sposato De Luca? Penso di sì. Insomma, pensa se anche in casa, in famiglia, fa così, con i figli. Sì, sì. Una fatica. Una fatica enorme. Allora, incredibile. È stato tutto De Luca. Va bene. Altro che sole. La giornata è sole. Qua siamo proprio una giornata Bloomberg. Sì. È sempre Bloomberg. Allora, per De Luca la giornata è sempre Bloomberg. Ci chiedono se il ragionier Crosta piange come Meazza, se è un essere umano. Non lo so se... Ecco, forse è l'unico essere umano che non piange mai, il ragionier Crosta, visto che insomma... La questione per lui è solo fare tasse. Non lo so se la gente costa piange. No, pure no. Alla fine si piange solo per il denaro, mi sembra di capire. Di vedere intorno a me persone che piangono solo per il denaro, alla fine. Che prevale su tutto, anche sui sentimenti, no? Sentimenti, sì, sono collegati al denaro, come tu sai. Questa è più da professor Janssen che, sì. che da l'unica cosa che conta, che da corpo all'amore, ecco. È il denaro. Non può esserci una relazione d'amore se non è supportata da un conto in banca cospicuo. Ecco. Nessuno si innamorerà mai di te se non hai delle solide basi finanziarie, altrimenti l'amore dura il tempo di una caipirinha se non sei ricco sfondato. Va bene. Allora, ci scrive un'ascoltatrice su Facebook per questa vicenda di questo trapper Junior Calli, al quale viene fatta una pubblicità enorme, nel senso che nessuno lo conosceva fino ad ora. Io non sapevo manco chi fosse, cioè se mi chiedevi, che ne so, Sfera e Basta, così, Salmo, questi qui bene o male li conosco. Questo Junior Calli, no? Questa ascoltatrice critica, dice: qui non c'entra nulla le generazioni vecchi e giovani, tantomeno la libertà dell'arte, ma se si vanno a analizzare i testi di vecchie canzoni di questo Junior Calli, il rapporto con le donne è abbastanza brutale. L'ho appreso anch'io. Sarà abbastanza brutale, però è una costante spesso delle canzoni trap. Sì, La visione delle donne nelle canzoni trap è sempre piuttosto negativa, no? Inutile negarlo. Cioè, le visioni delle donne, il rapporto con le droghe sono esplicite, voglio dire. Mi stupisco che inneggiano e incitano all'uso delle droghe. Io nel 90% delle canzoni trap che ho sentito, le donne sono sempre descritta come persone che vanno con gli uomini solo se uno è ricco oppure se è famoso. Ecco, questa è la sostanza delle canzoni trap. Sì, vengono definite come degli oggetti di cui usare e abusare. Spesso, molto spesso. Non è che dicendo così dico mi va bene, no. È sbagliato, assolutamente sbagliato. Mi sembra un pochino pretestuosa questa polemica adesso. Perché questa persona va a Sanremo? No, anzi, è abbastanza stupefacente il fatto che invece molte di queste canzoni trap non vengano mai accusate di sessismo, no? Perché appunto è una costante. Però infatti, per esempio, questa vecchia canzone si dice anche che c'è anche un video esplicito in cui una donna viene legata e si. Perché allora quel video è stato come dire, approvato, no? Perché quel video è stato diffuso? Perché quel video circola? Allora, la polemica doveva esserci allora e potevo anche essere d'accordo. A monte, dovevamo fare questa polemica a monte, non a valle. Nel momento in cui le cose vengono a monte, bisogna trattarle a monte, non a valle. È troppo facile a valle e invece i problemi per risolverli vanno stroncati a monte. È problema delle. Mi sembra il titolare della vagone tu. A monte! Bisogna risolvere i problemi. Aberonzi, è inutile fermare la caduta dei capelli quando già sono caduti. E la caduta dei capelli va fermata a monte! Vogliamo dirlo o no questa cosa? Certo che nasce bene questo Sanremo, le accuse di sessismo ad Amadeus. Tutte la cose donna, che faranno sicuramente aumentare gli ascolti, la sono tutte polemiche. Sta dietro, sta di fianco, un passo indietro. Ho visto che ha parlato, non ho visto cosa ha detto, ma ho visto che ha parlato la fidanzata che sta un passo indietro. Sì, che adesso dice che adesso è Valentino Rossi che deve stare un passo indietro a lei, perché adesso è lei che sta sul palco, mamma mia ragazzi. Poi ho visto che Amadeus ha detto che in casa lui non conta nulla, che comanda la moglie. Insomma, una serie di polemiche sterili. Potremmo lanciare la nostra rubrica delle polemiche sterili. Va bene, sentiamo Walter che ci Walter, scrive, bel nome, Walter che non si usa più. Ci chiama da Vicenza, Walter. Buongiorno a tutti. Era semplicemente per dire qualcosa a proposito della competenza di alcuni librai. Sì. Molto tempo fa a scuola l'Istituto per Geometri ho fatto una ricerca sul dadaismo, mi era piaciuto molto e c'era un bellissimo libro che si chiamava I manifesti del dadaismo di Tristan Zara, che è scritto T-S-T-Z-A-R. Sì, Zara. Sì, esattamente. Allora, poco tempo dopo ho detto, quel libro lo vorrei. E allora nella mia città c'era una libreria di quella casa editrice. E allora sono entrato e ho detto, buongiorno, vorrei i manifesti del dadaismo di Tristan Zara. Allora il signore guarda, io non lo trovo, ma è sicuro, sì, guarda, ce l'avevo a scuola, quindi... Guarda ancora, sì, no, guarda, io non lo trovo, ma è sicuro del titolo, sì, guarda, i manifesti del dadaismo, sì. Di chi, scusi? Di Tristan Zara. Mi dispiace, io non ne ho niente sullo zarismo. Sullo zarismo? Esatto, è Tristan Zara, giustamente, sì, quindi lui cercava sullo zarismo e invece... Vabbè, ma anche lei non può comprare i libri di Fabio Volo, porca miseria, il manifesto del dadaismo di Tristan Zara. Ancora in quel periodo, anche perché è stato, io ho 57 anni, quindi... Ma il primo Levi, guarda, anche se capito, guardi, sì. La sì, faccio, sui numeri non abbiamo niente, la però, faccio sorridere, la faccio sorridere, ma un collega mi raccontò di quando lavorava in biblioteca e arrivò una persona a chiedere il libro di Primo Levi, Sequestro un uomo. Capisci, sì. Walter, che quindi anche... ce l'avete mica Sequestro un uomo? Alla Mondadori qui di Vicenza, che non c'è più, con un'amica siamo andati a prendere 1984 di di Orwell, ovviamente, e fa, ma di chi è? È di Orwell, ma come si chiama? 1984. Guardi, però, guardi, siamo nell'83, probabilmente esce l'anno prossimo. Beh, questa no, non è male. Questa non io, quindi non è che me l'hanno raccontata, quindi succedono. Questa non è male, non è male. Siamo nell'83, forse esce l'anno prossimo. Questa amica non è male. È stata scritta nel 48, forse. Ma che amica saccentona, ma insomma, ma deve venire lì a insegnare a un libraio come si fa il libraio. Era una ragazza. Forse esce l'anno prossimo, è l'almanacco dell'anno, poi c'è 1985, 1986. Grazie Walter da Vicenza, va bene, vedi caro Leonardo, succedono... Vabbè, non è che siano tenuti a sapere tutto. No, certo, tutto. Bisogna sempre essere polemici. Miriam Lucchetti ci fa sapere che le critiche contro i trapper ci sono già da tempo in ambiente femminista. Ora che va a Sanremo c'è più visibilità. Oh, questo è l'editoriale. Miriam. Potevi venire a dirlo in onda comunque, Miriam. Perché ce lo dici con questo freddo comunicato stampa attraverso adesso uno schermo? Adesso lei farà un sorriso, abbozza e intanto dentro di sé pensa, ma vaffanculo. È così, è così. Questo stai pensando? Sì, Miriam. È sicuro, io la conosco, ho capito com'è Miriam. Anche se la conosco poco, ho interpretato il suo stato d'animo, diciamo così. Va bene, va bene. Dai, andiamo al traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Dai, adesso dicono c'è chi ha chiesto in libreria le coliche di Virgilio. Chi dice vorrei il processo di Kafka ma non ricordo l'autore. Vabbè dai, non so se sono anche leggende alcune oppure no. Tutti chiedono come è finita con Ortodonzio, ma in realtà dobbiamo, oggi il clown Neronello ha lavorato anche ieri a Castel San Giovanni e poi è una settimana importante di politica e quindi siamo felici che sia venuto a ritrovarci l'onorevole Partito Democratico Pargone. Buongiorno. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. No, ma è la settimana decisiva per il governo, dai, su. Lo so che è un momento decisivo. Dai. È un po' che non ci vediamo per quel momento, abbiamo dovuto stare in sede a lavorare giorno e notte. Sì. Lavoro come un matto. Non vedo più la mia famiglia, non vado neanche più a fare il corso di ceramiche. Corso di ceramiche lei fa. A volte sono anche costretto a dormire in sede, cioè se c'è da lavorare lavoro, però mi tocca dividere il lettone con Orfini che ha sempre i piedi freddi. Ma come i piedi freddi? E dormiamo insieme perché nella sede non c'è mica tanto spazio, alle estremità gelate Orfini, devo dormire coi calzini altrimenti i piedi freddi di Orfini mi fanno star male. L'altro giorno non potevo più di questo sfruttamento e ho chiamato la CGIL. Solo che Landini ha riconosciuto il nostro numero, ha fatto una pernacchia e ha riattaccato. Ormai sono 2 settimane che andiamo avanti così. Zingaretti dice che dobbiamo aiutarlo a risollevare le sorti del partito. Ma è difficilissimo risollevare il Partito Democratico. Ho fatto meno fatica a risollevare i glutei con i DVD di Jane Fonda. Allora, abbiamo sentito anche Bonaccini, candidato. Era contento perché dice che forse la svanghiamo. Ho dovuto riportarlo con i piedi per terra e ho detto, Bonaccini, cosa fai? Te credi ancora ai sondaggi? Piuttosto leggi il tuo oroscopo che ci sono più probabilità che ci prenda. Ha ragione Zingaretti, non dobbiamo ripetere gli stessi errori, dobbiamo farci venire delle idee. Oh, le idee. È in politica, le idee. Perché non si vince mica più coi contenuti, altrimenti come lo spiega il successo del libro della Giulia Dell'Ellis? Lo consiglio tra l'altro, sì, perché le corna uniscono tutti a destra e a sinistra, sono diciamo... democratici. Bravo. Ci vogliono idee fresche, idee moderne. Oh, meno male. Magari delle idee ittiche, come le sardine. Ittiche, ah, giusto. Potevo pensarci io le sardine, mio nipote all'asilo fa i lavoretti col cartone, gli facevo ritagliare un pesce e lo sventolavo in piazza. È questione di comunicazione, Milan. Le sardine dicono le cose che dovremmo dire noi, solo che riescono a parlare alle nuove generazioni. Perché noi non siamo, anche voi, no? E non siamo mica bravi con le nuove generazioni. Quando Orfini ha provato a scaricare l'app per farsi i selfie con le orecchie da coniglietto, sono in short gli animalisti. No. Abbiamo perso un altro 5%, abbiamo chiuso Instagram. Comunque, perché sono venuto qui oggi? Perché? Per dire che ho la soluzione. Oh, ecco, vedi, le idee. Bravo. Queste settimane di lavoro matto e disperato hanno dato dei frutti. Allora, si tenga forte perché ho il nome del nuovo volto del Partito Democratico. Attenzione. Che risolleverà in toto. Attenzione. Le sorti del Partito Democratico. Sono le 10:51, ascoltatori, dall'onorevole Pargone, il nuovo volto del PD. Che farà prendere nuova linfa vitale. Bene. Allora, giovane. Giovane. Donna. Immigrata. I suoi genitori, coppia mista, sono divorziati. È una mamma lavoratrice con un marito che la supporta. Sì. Praticamente da sola porta avanti tutte le istanze della sinistra. Cioè, chi è questa donna che risolleverà le sorti del Partito Democratico? Chi è? Meghan. La moglie del principe Harry, giovane donna immigrata. Coppia mista, i genitori sono divorziati, mamma lavoratrice con un marito che la supporta, è Meghan, ma la secondo chiamata, lei perché ha rinunciato ai privilegi reali, non per andare a vivere in Canada, ma che Canada, io ho già trovato una bella villetta a Schiera a Carpi. Firmano il rogito lunedì! Che notizia! Doveva vedere com'erano contenti della proposta! Cosa non si fa pur di levarsi dai piedi la vecchia Elisabetta? La vecchia. Andiamo a vivere a Carpi, villetta a Schiera! Questo è il nuovo volto che risolleverà il Partito Democratico! Megan. Piace a tutti! Oh. Ha rinunciato ai privilegi reali, è una vera democratica! Immigrata. Questa è la mia proposta di Pargone a Zingaretti e a Orfini! Basta coi piedi freddi, va bene? Dove vivere a Carpi con Harry Meghan. Ma senta, ma l'ha già sentita Meghan? No. Viene a firmare il rogito lunedì. Appunto. E quindi, a non Carpi. L'ho sentita personalmente, ho avuto dei contatti trasversali. Però pare che ci siano buone possibilità. Bene. Io sono convinto che può essere la figura giusta per risollevare il Partito Democratico. Ma sa che lei non ci crederà, ma secondo me è una idea brillante, caro Pargone. Non sono qui a milantare. No, guarda che io ho una lunga tradizione di militanza. Ma l'ascoltano nel partito? Nessuno. Neanche Orfini tra i quando piedi. Parlo, appena parlo io ai congressi comincia a sollevarsi il brusio, quelle cose che ti sopportano, che si sente in sottofondo il brusio di parla Pargone, parliamo di altro. Vabbè, ma quando va a letto lì che con Orfini piedi freddi eccetera, che deve condividere, dica qualcosa Orfini, lui è ascoltato nel Orfini partito. Si mette le cuffiette e ascolta Guccini, tutte cose che i giovani fanno perdere ogni volta 5% di punti, ancora Guccini, la locomotiva. Qui la gente viaggia in modo diverso con le automobili prese a noleggio, quelle lì come si chiama, Joy. E lui Orfini, la locomotiva, dopo pretende che ancora i giovani lo votano. Ma Meghan adesso risolleverà le sorti. Meghan risolleverà le sorti del Partito Democratico. Va bene. La mia proposta verrà riconosciuta come quella decisiva. Grazie, allora lasciamo così col maestrone. Grazie onorevole Pargone, ci venga a trovare ancora. Non fate il brusio nei congressi quando parlo io, datemi retta 5 minuti. Di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Uno, nessuno, nessuno.